voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Franco Pomilio, la comunicazione a firma italiana, di Alessandra Scaglioni. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di una famiglia e di molte imprese, che si estende nell'arco di oltre 100 anni. Il nome della famiglia è Pomilio. Le imprese vanno dal settore aeronautico alla cellulosa, sino al liquore Aurum, per arrivare alla pubblicità e alla comunicazione con la Pomilio Bloom, di cui oggi è presidente Franco Pomilio. Erano imprese con un comune denominatore, direi, quello della creatività, perché in alcuni casi erano imprese mai esistite prima. Penso agli inizi del secolo, quindi alla fabbrica di aerei dei Pomilio, che nasce a Torino e poi segue una serie di percorsi fino ad arrivare ad Indianapolis. Il primo volo postale, per esempio, delle Poste Italiane avviene con aerei progettati dai fratelli Pomilio, gli stessi fratelli, ingegneri aeronautici, chimici, civili in alcuni casi. Poi continuarono con imprese collaterali. Una per tutte, per esempio, è un processo che è ancora oggi, diciamo, censito dall'Enciclopedia Treccani, che è l'estrazione della cellulosa alla canna da zucchero. Un sistema, come dire, di fornire cellulosa in modo economico, che poi ha portato questo brevetto ad essere impiantato un po' in mezzo mondo, dove c'era la materia prima, quindi Sud America, Sud-Est asiatico. Nel periodo tra le due guerre, Amedeo, classe 1882, primo presidente dell'Associazione Industriali d'Abruzzo, a dare il via all'avventura dell'Aurum, che veniva prodotto nel liquorificio realizzato nel cuore della Pineta d'Annunziana e progettato dall'architetto modernista Giovanni Michelucci. Succede poi, proprio intorno agli anni 30, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, abbondantemente dopo, che nasce un'altra impresa di famiglia, che era un liquorificio. Il suo nome è Aurum, o meglio dire Gabriele D'Annunzio, quindi il poeta e anche il pubblicitario ante litteram di quel periodo, e nasce a Pescara, nasce in un posto fantastico, nella Pineta, oggi chiamata D'Annunziana, ed è in realtà soprattutto, come dire, una sorta di punto d'origine di una passione anche creativa, nobile, non solo nel fare impresa, ma anche nell'aprire l'impresa al contributo culturale di altri operatori, appunto D'Annunzio come poeta, Giovanni Michelucci, che è stato forse il più importante architetto postmodernista italiano, stazione di Santa Maria Novella, la chiesa sull'autostrada e così via, e Marcello Dudovic, triestino, grande, diciamo, pubblicitario anche lui ante litteram, qualcuno lo definisce il Toulouse-Lautrec. Come le altre imprese della famiglia, anche l'avventura dell'Aurum finisce negli anni 60. Oggi il liquore viene prodotto altrove e il marchio è di proprietà dell'Ilva di Saronno. La famiglia in realtà è una famiglia che ha progettato degli start-up molto, molto impegnativi. Diciamo, la fabbrica di aerei mi pare che arrivasse a un certo punto ad avere oltre 1500 lavoratori impegnati, quindi era una cosa enorme. Ma poi nel tempo queste esperienze si sono, come dire, sono evaporate, seppure gestite apparentemente in modo illuminato. Però questa radice di tipo creativo è una radice che nella famiglia è continuata ad essere trasferita fino appunto a quella che oggi è l'attività core della nostra famiglia. L'attività è quella della comunicazione, che inizia all'epoca di Carosello, producendo pubblicità per grandi aziende come San Gemini e Ferrarelle. Fondata da due dei tre figli di Amedeo, Oscar e Gabriele, l'azienda si chiama Pomilio Idee, lavora e cresce in Italia, ma negli anni Ottanta inizia ad andare all'estero. Ha un'origine, diciamo, ai tempi del Carosello, quindi negli anni 60, ed è probabilmente originata da questo rapporto culturale, da questa esperienza pubblicitaria che nasce intorno al progetto dell'Aurum con poeti, artisti e così via. Poi in realtà, diciamo, ha un primo sviluppo, che è uno sviluppo direi quasi propedeutico alla diffusione di una cultura della comunicazione in una piccola regione fatta di pastifici. Per esempio, ricordo personalmente la prima pubblicità del pastificio De Cecco, che è e rimane uno dei brand forse premium per la pasta più conosciuti al mondo. Però in realtà l'Abruzzo offriva relativamente poche opportunità di sviluppo. Poi, diciamo, negli anni 80 c'è un primo tentativo di internazionalizzazione forte, che è quello di seguire, diciamo, lo sviluppo del mercato arabo, ma nel senso più integralista, cioè Arabia Saudita, Jeddah, il canale di Stato che apre alla pubblicità, e lì nasce questa società che si chiama Amin Bloom, che io ho avuto, diciamo, la fortuna di seguire perché ero appena fresco dei miei studi all'estero e quindi rientrato in Italia sono stato catapultato in questa regione Arabia Saudita che era davvero taglio della mano ancora e pennellate di nero sulle riviste che non avevano persone completamente coperte di telo. Franco Pomilio, figlio di Oscar, è presidente dell'azienda che guida assieme al fratello Massimo, proseguendo nella strada dell'internazionalizzazione partita con il padre. E poi questa storia evolve fino, diciamo, agli anni 2000, io salto di ventennio in ventennio, in cui la storia sostanzialmente si ripete con me. In questo caso è un progetto che è più strutturato, si chiama The Bridge, ed è l'idea che anche qui il Made in Italy fuori dall'Italia, soprattutto nei mercati emergenti, perché quelli tradizionali ovviamente erano ben organizzati, fosse qualcosa da interpretare, da comunicare con un senso italiano del valore di prodotto. Fondamentalmente che cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti che magari grandi brand italiani messi su una piattaforma globale diventano dei piccoli brand con strutture commerciali molto ridotte, seppure una grandissima immagine. Abbiamo così iniziato proprio con questa mela araba che per noi era da Dubai, questo hub di fondo, e abbiamo iniziato a lavorare per Generali, per Luxottica, per grandi gruppi italiani che poi però in quelle regioni in realtà avevano piccole strutture quindi che avevano bisogno di supporto dal punto di vista appunto della comunicazione, della traduzione del progetto. Il concetto The Bridge va proprio in questa situazione, cioè italiani con, diciamo, trasduttori locali che interpretano il prodotto italiano e garantiscono al produttore di qualità italiana una interpretazione, come dire, sincera, corretta, autentica del proprio prodotto, del proprio servizio. E così è avvenuto. L'attività cresce sia all'estero che in Italia, trovando una strada di specializzazione che nasce da un'idea. Sì, siamo cresciuti partendo da un'intuizione che è un'intuizione molto semplice e devo dire vissuta dal vero. Io ho avuto la fortuna, come un po' tutta come tradizione di famiglia, di studiare e vivere all'estero. Ho avuto la possibilità di studiare in Inghilterra, in Stati Uniti e soprattutto in Giappone, quindi avendo poi fatto tra l'altro a Milano un punto di partenza un paio d'anni con professori tedeschi, direi che sostanzialmente mi sono fatto il giro completo delle culture della comunicazione. E che cosa sostanzialmente ho capito, al di là, diciamo, delle diverse sensibilità culturali per comunicare in certi mercati? Che tutto si produceva e si riproduceva esattamente come era stato pensato negli anni 50. Tutto era legato al rapporto tra produttore, prodotto e consumatore, e in realtà è ancora così. C'è invece un'enorme fascia di mercato che non ha nulla da vendere, ma soltanto da proporre valori, proporre cambiamenti culturali, eccetera, che sono le grandi istituzioni, anche le istituzioni regionali, le istituzioni locali. Se pensiamo addirittura che un'istituzione regionale come la Campania, o potrei dire la Sicilia, è sul piano, mi pare, delle valutazioni di spending paragonabile a una grande multinazionale sul mercato italiano. Pomilio Bloom si specializza nella comunicazione del settore pubblico. Conta tra i suoi clienti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diversi ministeri, enti regionali, l'Unione Europea. Del 2013 sono la promozione del turismo in Calabria, lo spot televisivo per l'Autorità dell'Energia e del Gas e la campagna stampa per il Teatro dell'Opera di Roma. Essere un'azienda familiare italiana rappresenta un vantaggio competitivo per arrivare dove le multinazionali non possono. Non c'è alcun direttore, alcun amministratore delegato che possa in Italia decidere autonomamente oltre un certo limite. È chiaro che hanno il vantaggio di vedere le loro decisioni inserite in un, come dire, uno scenario globale con compensazioni di bilanci positivi, bilanci negativi, eccetera, che poi costituiscono la vera ultradimensione delle multinazionali. Però dall'altra parte sono completamente, diciamo, fuori logica, fuori contesto. E questo è un grandissimo vantaggio per chi opera nel nostro settore. Quindi, diciamo, l'idea di avere una capacità culturale nel leggere il proprio paese o, se si vuole, la propria area culturale di riferimento, che si chiama Europa o Europa mediterranea per certi versi, con certe dinamiche. Pensiamo, per esempio, alle dinamiche dell'ente pubblico: quale grande azienda multinazionale sarebbe in grado di accettare i tempi della pubblica amministrazione, decidendo magari da New York di accettare 120 giorni o 180 giorni senza rendersi conto dello stato effettivo del mercato? Nessuno. La sede centrale resta Pescara, 10 sedi in Italia, rete di partnership europea e presenze all'estero, sia con sedi che con modalità più leggera. Noi siamo sostanzialmente un centinaio di persone, di cui circa 70 sono su Pescara e le altre persone sono distribuite dove, come dire, il lavoro chiama. In realtà, diciamo, anche in questo caso abbiamo diverse sedi periferiche a partire da Roma, ma le abbiamo aperte anche con singole unità o con due o tre unità. Dovunque abbiamo contratti pluriennali. Ci siamo abituati, più che aprire sedi, che pure è un fatto formale che facciamo, a inserire i nostri collaboratori all'interno dei grandi progetti, quindi presso i grandi enti, le grandi istituzioni che ce li chiedono. Stiamo, diciamo, lanciando, noi a settembre dovremmo lanciare un'apertura che per noi è molto importante, è quella di Bruxelles. Siamo presenti a Dubai. E per il futuro, Franco Pomilio vede ancora sviluppo internazionale e giovani. Io vedo sostanzialmente uno sviluppo nell'area dell'Euro-Mediterraneo, molto forte. Direi che, se dovessi esprimere un desiderio, direi uno svecchiamento ulteriore, cioè di dare ampie responsabilità a persone giovanissime. Per esempio, mia figlia che ha 27 anni, direi che ormai è pronta per la pensione dal mio punto di vista, nel senso che lei è già stata a Dubai, insomma, ha vissuto a Londra, negli Stati Uniti, eccetera, quindi le ha fatte un po' tutte. Però c'è un bisogno di comprendere il mondo che credo soprattutto i più giovani possano fare. Quindi il mio desiderio sarebbe di condurre un'azienda con gente giovanissima, ancora più di quella che oggi è, che è comunque un'età media intorno ai 30. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.